GR24, il sole 24 ore. Medio Oriente, Israele ferma l'operazione di terra, la Turchia attacca, pulizia etnica. Fisco, 1 milione di famiglie spende, ma redditi vicini allo zero. Il sequestro lampo del contabile di Berlusconi e da domani gli interrogatori. Champions League, la Juventus contro il Chelsea, si gioca tutto. Una buona giornata di nuovo da Simone Spezia e dalla redazione di GR24. In apertura di questa edizione parliamo ancora di Medio Oriente. Si cerca una tregua, ma la battaglia prosegue. E a Tel Aviv, tra l'altro, ci sono stati spari nella zona dell'ambasciata americana. Valentina Furlanetto per gli aggiornamenti. Buongiorno, Valentina. Sì, buongiorno a te, gli ascoltatori. Dopo l'appello del segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon, Israele ha sospeso temporaneamente l'attacco di terra per il quale erano stati richiamati, lo ricorderete, i riservisti alcuni giorni fa. La tensione resta comunque molto alta. Non giovano in questo senso l'esternazione del primo ministro turco Erdogan, il quale oggi ha detto che Israele ha messo in atto una pulizia etnica nei confronti dei palestinesi. Non aiutano neppure i proclami di poco fa di Mohamed Deifi, comandante militare di Hamas, che oggi ha esortato i suoi miliziani. Ha detto: il nemico la pagherà cara se pensa di poter entrare a Gaza. E insomma, c'è anche una guerra di propaganda, ma una guerra anche sul territorio. Oggi sono stati un centinaio gli obiettivi colpiti nella striscia, con almeno 6 vittime. Sul fronte opposto un israeliano è rimasto seriamente ferito a Eshkron e nuovi danni si sono registrati a Beersheba. Il bilancio supera le 100 vittime da parte palestinese, 3 ancora le vittime israeliane. 9 organizzazioni non governative che erano a Gaza ieri sono state evacuate, tra queste anche l'italiana Associazione Cooperazione e Solidarietà. Da Ramallah abbiamo sentito poco fa la cooperante Mary Carvelli. C'è stato intanto un innalzamento di attacchi nei confronti della popolazione civile. Dall'altra notte sono stati attaccati soprattutto case dentro i campi profughi, nei villaggi più isolati, quindi colpite direttamente le case dei civili. Gaza è super affollata, quindi le case sono una a fianco all'altra, se ne viene colpita una rimangono colpite comunque anche tutte le altre intorno. L'ultimo attacco è stato questa mattina alle 8, che dove sono morti 3 componenti di una famiglia di 10 persone. Padre con 2 bambini e la mamma, anzi, è stata ricoverata grave, ma abbiamo appena saputo che è morta anche lei in ospedale, quindi lascia altri 5 figli e il nonno, che l'avevamo appena raggiunto al telefono. Ecco, questa è la cronaca del territorio, ma c'è stato anche un episodio inquietante a Tel Aviv, a cui accennavi, Simone. All'esterno dell'ambasciata americana un uomo ha ferito con un coltello una guardia. Non ci sarebbero però un collegamento diretto con le tensioni degli ultimi giorni. L'assalitore è un israeliano e ha precedenti penali. Per ora è tutto. E grazie Valentina Furlanetto. Veniamo a parlare di fisco adesso. È stato presentato questa mattina il reddit test dell'Agenzia delle Entrate, ma soprattutto sono emersi dati sull'evasione molto interessanti. Se si dichiara un reddito vicino allo zero, ma le spese sostenute sono rilevanti e ricorrenti, qualcosa di certo non quadra. Così è per ben 1 milione di famiglie italiane, mentre altri 3.300.000 sostengono comunque sborsi non coerenti con i redditi dichiarati. A lanciare l'allarme è l'Agenzia delle Entrate, secondo la quale una famiglia su 5 è a rischio evasione. La non coerenza non significa automaticamente evasione, ma il rischio comunque esiste, ha detto il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, presentando oggi il reddit test, il nuovo redditometro, uno strumento che consentirà appunto di verificare queste incoerenze. Il nuovo redditometro, inteso come strumento di accertamento, è già pronto, siamo in fase di approvazione del relativo decreto ministeriale e quindi sarà pronto sicuramente a gennaio, sarà utilizzabile. Ripeto, noi lo useremo con la massima cautela e soltanto per differenze eclatanti. Oltre 100 le voci di spesa contenute nel nuovo misuratore di reddito, un metodo di ricostruzione che, a differenza del passato, non si basa su presunzioni ma su dati certi e situazioni di fatto. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. Restiamo sull'economia, dunque, riflettori puntati sull'Europa, oggi con 2 notizie a dominare la giornata: il taglio del giudizio sul debito francese da parte di Moody's, nell'Eurogruppo ad Atene sugli aiuti alla Grecia. Iniziamo da Parigi, dove l'agenzia di rating ha proceduto con un downgrade largamente annunciato, dopo che già Standard & Poor's aveva fatto perdere alla Francia la tripla A. L'analisi di Marco Mussanè. Il governo francese sperava, ne era anzi certo, che le agenzie di rating gli avrebbero lasciato un po' più di tempo, a maggior ragione dopo il recentissimo cambiamento di rotta, grazie al quale le imprese riceveranno una boccata d'ossigeno da 20 miliardi. E invece, dopo Standard & Poor's a inizio anno, anche Moody's ha colpito, privando Parigi della preziosa AAA. Nonostante i 20 miliardi, i conti infatti non tornano. Mancano le riforme strutturali, sulla flessibilità del mercato del lavoro e su una maggiore liberalizzazione in quello dei beni e servizi, mentre le previsioni economiche e finanziarie del 2013 sono così ottimistiche da non essere credibili. Per ora i mercati non hanno reagito e la Francia continua a finanziarsi a tassi storicamente bassi, ma il campanello d'allarme per il presidente François Hollande è suonato. Bisogna fare di più e più in fretta. Marco Mussanè, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi. E come si diceva, c'è anche l'Eurogruppo di Atene che dovrebbe dare il via libera ai nuovi aiuti per la Grecia. Beda Romano. Si riuniscono questa sera a Bruxelles i ministri finanziari dell'Eurogruppo, è la seconda riunione in una settimana e dovranno discutere nuovamente di Grecia e di aiuti alla Grecia. È ancora difficile capire esattamente quale sarà l'esito di questa riunione, è probabile che ci sarà un accordo su una tranche per aiutare finanziariamente il paese in crisi, ma su altri aspetti controversi è probabile che non si trovi un accordo. Uno degli aspetti che è in discussione in questo momento è la ristrutturazione del debito pubblico greco. C'è una forte diatriba, da un lato il Fondo Monetario Internazionale che chiede una ristrutturazione radicale e dall'altra parte l'Europa che preferisce parlare di riduzione del debito e non può e non vuole sentire parlare di ristrutturazione. La riunione comincia alle 4 del pomeriggio e rischia di durare fino alla tarda serata. Vedremo dunque che cosa succederà. Nel frattempo ringraziamo Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. E in questa giornata vediamo dunque di dare un quadro di come stanno andando le borse. Deborah Rosciani, buongiorno. Buongiorno. Allora, l'apertura era stata negativa questa mattina. Gli indici hanno aperto con ribassi di circa mezzo punto percentuale. Milano è addirittura arrivata a guadagnare quasi un punto e quindi in questa maniera si commenta la decisione di Moody's di esprimere questo giudizio appunto sulla Francia. Poi c'è stato un generale miglioramento, adesso Parigi rimane ancora negativa insieme a Londra, ma di appena lo 0,14 e 0,19% rispettivamente. Francoforte positiva più 0,27, rimane ancora un po' pesante Milano che perde lo 0,6%. Ieri però Milano ha guadagnato il 3, quindi arrivano intanto delle naturali prese di profitto, ma soprattutto oggi le vendite si accaniscono sul settore bancario di nuovo, perché Moody's, oltre ad aver espresso il suo giudizio sulla Francia, lo ha espresso di nuovo anche sulle banche italiane e ha detto che l'outlook, cioè la prospettiva del sistema bancario italiano, rimane negativa. I peggiori titoli sono però quelli della galassia Fiat, perché in questo caso c'è stato un giudizio negativo degli analisti svizzeri di UBS. Fiat SPA in borsa meno 4,59, Exor Holding di riferimento del Lingotto meno 2,88%. Quindi oggi seduta tutto sommato tranquilla, addirittura l'euro sul dollaro è tornato sopra quota 1,28 ed è anche particolarmente galvanizzato il mercato americano, perché ieri ha terminato in rialzo segnando la miglior seduta da settembre. Per ora è tutto. E grazie Deborah Rosciani per questi aggiornamenti. La cronaca: la squadra mobile della questura di Caserta, nell'ambito di un'operazione che è stata chiamata Thunderbolt 2, ha arrestato Antonio Zagaria, il fratello del boss Michele, ritenuto il reggente del clan dei Casalesi. In manette anche il nipote di Zagaria, Filippo Capallo, è notificato in carcere provvedimenti ad altri due fratelli, Carmine e Pasquale. Il nipote degli Zagaria era stato scarcerato da circa un mese. Restano molti interrogativi intorno al sequestro lampo di Giuseppe Spinelli, il contabile di Silvio Berlusconi. Domani inizieranno gli interrogatori di garanzia dei sei componenti della banda arrestati ieri, a partire dal capo, il pregiudicato barese Francesco Leone. L'ipotesi è che sia stato pagato un riscatto di 8 milioni di euro, che il legale dell'ex premier Niccolò Ghedini ha però escluso categoricamente. Le indagini puntano su un viaggio in Svizzera di alcuni dei sei finiti in carcere. Un sequestro anomalo che non ha nessuna analogia con i sequestri anni 70-80 per il senatore Achille Serra, ex prefetto, una lunga carriera in polizia, specialmente a Milano. Lo ha intervistato Maria Luisa Pezzali. È un sequestro anomalo, perché i sequestri di persona che Milano ha patito per anni sono stati tutti di diversa natura, impostati in maniera diversa, pianificati in maniera diversa e realizzati in maniera diversa. Non trovo nessunissimo raffronto con quei sequestri di persona. La tecnica, il modo di agire, la realizzazione, non riesco a trovare nessun esempio con il passato. Le sembra una banda di improvvisati, una banda dell'Ortica, qualcuno l'ha definita? Anche qui a occhio e croce mi sembrano quelli che a Roma dicono barboni, 4-6 poveracci. Questo il quadro. L'intervista completa da Achille Serra sarà tra poco in Italia in Controluce, in onda alle 13.30. La puntata di oggi sarà dedicata appunto al sequestro Spinelli. Il punto di Stefano Folli. Il misterioso sequestro lampo di uno dei suoi uomini di fiducia è solo l'ultimo elemento che richiama l'attenzione su quello che un tempo era l'uomo più potente della politica italiana, Berlusconi. Ma tutto questo non fa che accentuare gli interrogativi sul domani, su quale sarà l'equilibrio di un sistema politico che ogni giorno suscita dubbi in chi magari lo osserva da lontano, dall'estero. È un fatto che il Presidente della Repubblica è sembrato voler rassicurare proprio i nostri partner in Europa e in America, e forse più ancora i mercati finanziari. Si voterà in Italia, ha detto Napolitano, ma tutto andrà per il meglio e poi avremo un governo che rispetterà e continuerà il lavoro di Monti. Parole appunto che vogliono essere rassicuranti, di chi sa bene che nelle varie capitali non si nutre la stessa fiducia nel dopo elezioni e si guarda con inquietudine alla prospettiva di un'Italia che rischia di tornare ai vecchi vizi di una politica mai veramente risanata. E tra l'altro poco fa è tornato a parlare il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, dice: i partiti nel bene dell'Italia troveranno di volta in volta il limite oltre il quale non deve spingersi la loro discordia. Ha parlato anche di altri argomenti, ad una domanda di una giovane borsista a Napoli, ha detto: condivido le sue preoccupazioni e l'accento che ha messo sulla questione essenziale non solo per Napoli, nel dare all'impegno per la ricerca e la cultura il posto che spetta nelle decisioni della politica nazionale. E torniamo alla politica. Una settimana decisiva per il centrosinistra è quella che si concluderà domenica con le primarie, dunque dibattito ancora aperto mentre si assiste alla moltiplicazione letteralmente delle candidature per le primarie del PDL. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno. Intanto andiamo a quelle del centro-sinistra, che ricordiamo si votano domenica come primo turno. È sempre il sindaco di Firenze a spronare alla competizione, sarà un testa a testa, promette Matteo Renzi. Vedo nell'altro campo che sono tutti tranquilli e molto sereni e pensano di essere avanti, ma io dico che ci saranno sorprese, dipende anche da quante persone andranno a votare, e Renzi dice che non si preiscriverà perché vuole dimostrare che con 2 euro in tasca, un documento, un certificato elettorale, si fa la fila e si vota. Il segretario PD invece, Pierluigi Bersani, si concentra sui diritti omosessuali, incontra una coppia di ragazze gay per arrivare all'unione di fatto come in Germania. Riguardo all'iscrizione, per dovere di cronaca spieghiamo che è anche molto semplice, si può fare online, basta andare sul sito del PD, sapere il numero del proprio seggio che si trova sulla scheda elettorale e immettere i dati anagrafici. Nell'altro schieramento invece è tutto ancora in stato di nebulosa per le primarie del PDL, per il capogruppo alla Camera Fabrizio Cicchitto, però stanno rimettendo in moto il partito. Non mancano le stoccate tra i molti candidati. Guido Crosetto attacca l'outsider Giampiero Samorì, una persona che nasce come un fungo, si candida anche Vittorio Sgarbi, mentre gli ex AN non appoggeranno Giorgia Meloni. Il sindaco di Roma Gianni Alemanno fa sapere che voterà Angelino Alfano, il favorito dai sondaggi. Per il momento qui da Roma è tutto, per studio. Grazie Elisabetta Fiorito. Nel frattempo torniamo sulla politica economica, perché l'intesa sulla produttività è alla prova. In attesa dell'incontro tra imprese e sindacati per domani alle 18.30 a Palazzo Chigi, dopo la firma della CISL è arrivata ieri anche quella della UIL, mentre per la CGIL la partita è ancora aperta. Al microfono di Anna Marino, Luigi Angeletti, segretario generale della UIL, puntualizza la posizione del sindacato anche rispetto alla frenata della CGIL, in particolare sul paletto posto da Camusso, che riporterebbe la Fiom al tavolo del contratto di categoria. Quella che si dice la nostra condizione è la condizione che è scritta dall'accordo, quindi condivisa da tutte le parti sociali. D'altronde stiamo facendo una riforma del modello contrattuale per aumentare la produttività. E aumentare la produttività non è una questione che si risolve in un anno. Quindi la riforma strutturale comporta una detassazione anch'essa strutturale, altrimenti non diamo certezza a nessuno. Per quanto riguarda la frenata della CGIL e il possibile rientro della Fiom? No, il rientro della Fiom è una cosa che non sta né in cielo né in terra, perché quello che si sta discutendo è il rinnovo del contratto del 2009. La Fiom non solo non ha firmato, ma addirittura cercato di contestare giuridicamente nei tribunali. La Fiom può rientrare a un tavolo trattativa avendo un comportamento normale, riconoscendo il contratto che oggi è in vigore nell'industria metalmeccanica. Non può entrare in una trattativa con l'unico obiettivo di boicottarla, di non farlo fare. Lei è sorpreso? No, non sono sorpreso, perché per la CGIL il problema del merito è sempre stato secondario. E noi torniamo all'estero. I servizi di sicurezza polacchi hanno annunciato oggi di aver sventato un attentato di grandi proporzioni contro il Parlamento a Varsavia e di aver arrestato il responsabile del piano eversivo e altre due persone. Il procuratore in una conferenza stampa ha detto che l'uomo, 45 anni, insegnante all'Università di Cracovia ed esperto in esplosivi, avrebbe progettato di far saltare in aria davanti al Parlamento un veicolo bomba con 4 tonnellate di tritolo. Dopo giorni di scontri, i ribelli hanno conquistato oggi il controllo dell'aeroporto di Goma, la principale città della regione orientale del Kivu nella Repubblica Democratica del Congo, scontri che stanno mettendo a dura prova la popolazione civile. A Goma c'è il sacerdote italiano Piero Gavioli, lo ha raggiunto Anna Migliorati. Qui io sono nel centro dei giovani Don Bosco di Ngandi, che è all'estrema periferia nord di Goma. E ieri nel pomeriggio alle 14:45 che hanno incominciato a sparare con armi pesanti, 3-4 chilometri da qui, dove la linea dell'aeroporto, sono i soldati dell'esercito regolare e gli ammucinati si sono affrontati fino a sera tardi, fino alle 11 hanno continuato a sparare. I soldati dell'esercito regolare si sono ritirati in città e gli altri sono avanzati e hanno preso posizione attorno all'aeroporto in 2 o 3 quartieri nord della città, che hanno occupato anche l'aeroporto, che stanno occupando tutta la città progressivamente. Qui nel centro abbiamo 6 o 7 mila profughi, diciamo più della metà bambini, come è normale. C'è qualche anziano, qualche donna, c'è anche qualche giovane, ma non troppi. Invece i bambini sono tanti. E quindi in città per il momento è impossibile spostarsi, quindi abbiamo ricevuto promesse di aiuti da parte della Croce Rossa, del Programma Alimentare Mondiale, anche da altre organizzazioni governative. E abbiamo sentito appunto Piero Gavioli, Don Piero Gavioli, che è del centro dei Salesiani, del centro Don Bosco appunto a Goma in Congo, attività supportata dal VIS, Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, un ONG. Uscirà domani in Italia e in contemporanea in 50 paesi il libro del Papa, L'infanzia di Gesù, terzo volume della trilogia del Pontefice dedicata appunto a Gesù. Tiratura iniziale oltre 1 milione di copie, oggi la presentazione in Vaticano. Il presidente del Pontificio Consiglio della Cultura e il cardinale Gianfranco Ravasi ha sottolineato il fondamentale binomio storia-fede. Questa componente fondamentale, prima di tutto puntiamo alla storia. Evidentemente tutto il libro è ininterrottamente segnato dal tentativo di ricerca della componente storica. Gesù non è comparso in pubblico, nell'imprecisato una volta, c'era una volta, del mito. Egli appartiene a un tempo esattamente databile e a un ambiente geografico esattamente indicato. L'universale e il concreto si toccano a vicenda. Ecco, questa componente della storia io vorrei che tutti i lettori la seguissero nell'interno di questo testo, perché costituisce una delle componenti fondamentali. Ora il calcio con la giornata importante della Juventus. Carlo Genta, buongiorno. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. È l'ultima notte, anzi speriamo che non sia l'ultima notte della Juventus nel suo stadio in Champions League, però la Juventus deve conquistare la qualificazione, questa sera c'è il Chelsea. e i bianconeri hanno bisogno di 4 punti almeno nelle ultime 2 gare. L'ultima sarà a Donetsk contro il pericolosissimo Shakhtar. Dunque, notte della verità per la Juventus. È stato chiesto a gran voce da giocatori, da Alessio, da tutto l'ambiente, un grande tifo. Serve appunto battere il Chelsea. La formazione scelta è quella base, quella titolare: Buffon in porta, Barzagli, Bonucci, Chiellini, quindi Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Marchisio, Asamoah, e davanti Giovinco e Vucinic, cui è affidata la missione del gol. Juventus-Chelsea 20:45, come detto, per i bianconeri la notte della verità in Champions League. Linea di nuovo allo studio. Grazie Carlo Gente, è tutto per questa edizione di GR24 condotta e curata da Simone Spezia con in regia Matteo Comes. Prossimo giornale radio alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini. GR Spettacoli. Buongiorno da Marta Cagnola. In apertura i dati d'ascolto TV. Chiusura in bellezza per Squadra Antimafia 4 Palermo oggi su Canale 5, seguita da 5.731.000 spettatori, 20.11% contro il 14.72 di Terra Ribelle, Il Nuovo Mondo su Rai 1. Da segnalare su Italia 1 Colorado, che ha quasi raggiunto l'11%, e su Rai 3 Che Tempo Che Fa del lunedì con l'8.85. Oggi giornata mondiale dell'infanzia, parte uno degli appuntamenti tradizionali della TV italiana, lo Zecchino d'Oro. Il direttore dell'Antoniano, padre Alessandro Caspoli. C'è per la prima volta quest'anno un tango in cui c'è un bimbo di 9 anni che parla del suo primo innamoramento a scuola. C'è una canzone che quest'anno tratta del fatto di una bambina che chiede all'ideale principe azzurro di scendere dal pero e di ritrovarsi un po' più con i piedi per terra, per cui anche smitizzare queste grandi illusioni di bellezza e di idealità per poi invece ritrovarsi a giocare, a fare le cose insieme. C'è una canzone che parla di due galline intelligenti ma sgrammaticate, che in qualche maniera prende in giro un po' il fatto che essere belle e intelligenti a volte non è un problema, ma che l'importante è continuare a divertirsi. E a raccontare lo spettacolo e la TV italiana da 60 anni c'è un settimanale, TV Sorrisi e Canzoni. Per festeggiare il compleanno esce un volume, 60 anni di TV Sorrisi e Canzoni, una storia italiana. Ma quali sono le difficoltà nel raccontare la TV oggi? Il direttore di Sorrisi, Aldo Vitali. Il problema fondamentale è che cambiano continuamente i programmi, perché in Italia non c'è una legge che regolamenta il fatto che i programmi oltre un certo giorno prima della messa in onda non possono cambiare. Ma al di là di questa fatica c'è la gioia, diciamo, e il divertimento di andare a capire quali sono i cambiamenti profondi che la televisione determina. Il più recente è quello del digitale terrestre, che ha spalancato la porta a tantissimi canali nuovi e quindi anche a programmi nuovi, personaggi nuovi. Poi non tutti diventano delle star, però tutti sono importanti per questo movimento televisivo che alla fine arriva quasi tra digitale terrestre e pay TV al 35% dell'ascolto. La solitudine delle idee. Un compleanno anche in musica, 20 anni di Ted Dubois. Li festeggiano con una serata speciale oggi all'Auditorium Parco della Musica di Roma e un doppio album, Mai di Moda. Andrea Satta. Abbiamo scelto questo titolo, questo lavoro, più come un dato di fatto che come un progetto. Per cui, ecco, diciamo, ci siamo resi conto che è andata così e che forse questo è il nostro modo di stare con gli altri. Ci siamo mossi forse un po' come si può muovere, diciamo, una compagnia teatrale, sentendo nostre anche cose che magari hanno scritto altri, come quelle di Leo Ferré, che però noi abbiamo interpretato e modificato, sulle quali abbiamo lavorato così tanto che un po' fanno parte della nostra vita. Ecco. E per la seconda edizione del GR Spettacoli di oggi è tutto. Da Marta Cagnola ancora l'augurio di una buona giornata.